Un salutone a tutte e tutti, nuova puntata di Passaggio al Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla appunto di quello che succede nel quadrante nord-ovest della città, della periferia, in generale della metropoli, raccontato da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Ricordiamo il Passaggio al Nord-Ovest va in onda appunto in streaming su Radio Wombat, la potete ascoltare, la state ascoltando dal sito wombat.noblogs.org. E va in onda appunto il lunedì in diretta alle 14 e in replica i giorni successivi fino al venerdì in alternanza il martedì e il giovedì alle 13 e il mercoledì e il venerdì alle 14. Ricordiamo anche il Passaggio al Nord-Ovest, lo potete risentire così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat in streaming in podcast andando sempre al sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, e andando alla sezione podcast, da lì scendendo giù fino appunto a Passaggio a Nord-Ovest si apre la sezione podcast Passaggio a Nord-Ovest, dove ci sono tutte le trasmissioni precedenti di Radio Wombat. E oggi ci spostiamo un po' più in là, diciamo, della città, della cerchia cittadina, della sua immediata periferia, e andiamo abbastanza a nord, diciamo, andiamo a Calenzano, dove si sta sviluppando da poco tempo un'esperienza di orti collettivi. Siamo qui con Roberto, e, appunto, che è un fautore, uno dei primi iniziatori, diciamo così, di questa nuova... di questi orti collettivi, e gli chiediamo innanzitutto una fotografia di quello che sono, dove sono situati, quanto è grande, diciamo, il terreno su cui stanno lavorando e via dicendo. Ecco. Sì, un saluto a tutti. Orto collettivo, come lo chiamiamo noi, e quindi... con i significati di conseguenza di un orto gestito da più persone in maniera appunto collettiva, si trova a Travalle di Calenzano ed è proprio all'interno del parco di Travalle, appunto, una zona molto bella, penso che molti di voi che stanno ascoltando la conoscono. Ecco, e abbiamo un terreno non grande, sono circa 350 metri quadri, in cui noi facciamo l'orto, che è una parte dei nostri obiettivi, perché l'orto sicuramente è un momento importante per, a livello collettivo, di ripensare al nostro rapporto con la natura, ricominciare a riconquistarlo, perché va detto che in questo cinquantennio, ma anche di più, è stato via via perso, e noi lo possiamo confermare questo proprio per la nostra esperienza, e difficilmente le tante persone magari si avvicinano all'orto collettivo, poi magari se ne vanno anche, perché in realtà non è così semplice come può sembrare. Avere una capacità di poter seminare, poter seguire e poter quindi coltivare anche delle piante dell'orto, che sembra banale, ma in realtà ci vuole tanto tempo, ci vuole attenzione, ci vuole anche fatica, e ci vuole veramente da seguirlo via via nel tempo, e questo purtroppo non siamo abituati in generale, e quindi le difficoltà ci sono, e ci sono anche tante cose che funzionano bene fortunatamente. Eccolo Roberto, come ci si arriva? Ecco, dove sono situati precisamente e che culture ci sono con cui avete iniziato? Ecco. Sì, sì, è classicamente un orto. Anche il modo di farlo, diciamo, è derivato dalla modalità contadina, per cui viene vangato o arato in qualche modo, viene concimato con cimi animali e vegetali, fatto col tempo che ci vuole e così via, e quindi proprio classicamente l'orto del contadino, si può dire. E anche le coltivazioni sono conseguenziali, quindi seguono il ciclo delle stagioni. In questo momento possiamo dire ci sono tanti cavoli di diverso tipo, nero, broccolo, cappuccio, e poi ci sono i porri, ci sono i radicchi, questo è un pochino quello è la cultura, le rape. Questo è un po' appunto quello che sono le culture invernali. Per arrivarci, Travalle, nel comune di Calenzano, ci si può andare proprio dal, per chi conosce, dal ponte della Marina, girando poi alla successiva rotonda a destra e seguendo la strada che porta proprio appunto lì, oppure dal Molino, se conosce meglio, oppure anche da Prato dalla Querce, è la strada che porta proprio al parco di Travalle. Diciamo che noi ci troviamo sulla strada che viene da Calenzano, prima del bivio, che porta o al ristorante di Travalle e alla fattoria di Macia, oppure alla fattoria di Travalle. Ecco, questo per arrivarci fisicamente, ma voi, quelli ora state, diciamo, gestendo l'orto, come ci siete arrivati? Ci sono state le riunioni precedenti, ci sono stati dei passaggi, vi conoscevate già, c'era un gruppo d'acquisto solidale? Sì, ok, diciamo che la cosa è nata dietro personalmente, seguendo diciamo un ragazzo che si definisce autistico, non lui chiaramente, e da tanti anni di lavoro proprio nell'idea che è possibile permettere, perché quello che, per cui quel poco che conosco io di queste situazioni, è che non si permette magari di avere un proprio ruolo, una propria responsabilità su qualche cosa, ecco. Ed è lì che è nata l'idea dell'orto. L'orto come momento in cui si segue la vita e ci si cura di una pianta o di più piante e così via. Insieme ad altri che hanno più o meno avuto questo tipo di esperienza, e questo è stato, ripeto, un lavoro abbastanza lungo, è nata l'idea di fare un orto collettivo in cui, al di là delle differenze e delle provenienze, questo va detto perché in questo momento con noi ci sono dei ragazzi richiedenti asilo, sono passati tanti ragazzi emigranti, ne abbiamo ancora in questo momento rapporti con questi ragazzi. Quindi niente, ci siamo tutti, e quello che noi diciamo appunto è la parità nelle relazioni, quindi cerchiamo di portare avanti quello che noi definiamo relazione alla pari, ecco. Ecco, diciamo che la proprietà, non c'è una proprietà degli alimenti, ecco, cioè vengono raccolti e poi ridistribuiti fra tutti quelli che ci lavorano, che lavorano l'orto, oppure non c'è una vendita, ecco? No, non c'è una vendita. Il nostro è di relazione, quindi ci sta. Se uno viene, segue, magari vuol prendere una cosa dall'orto, noi gliela diamo più che volentieri, ci mancherebbe altro. Ma il punto principale, quello che dicevo prima era uno dei punti su cui è partito l'orto collettivo, ma il punto principale è lo sguardo dall'orto che abbiamo sul territorio che ci circonda. E diciamo senza ecco, è proprio il pensare alla storia di quel territorio, quindi al suo passato, che è stato anche molto importante da un punto di vista dell'agricoltura, tutte le nostre colline. Ci venivano fatti coltivati i grani di diverso tipo, gli orzi, le avene, la frutta, gli ortaggi che veramente sfamavano la città, compresa la pianura, anche la parte pianeggiante era. E adesso, possiamo dirlo, purtroppo è rimasto quasi solo esclusivamente l'olivo, la coltivazione dell'olivo, che poi è degradata, e lì ci sarebbe da fare un discorso grande. Se ne parla tanto in pompa magna, ma in realtà questa coltivazione è in continuo degrado e anche lì subisce le logiche o di sfruttamento, quindi di abuso, oppure di abbandono. E vediamo proprio a chiazze questa modalità e questo tipo di rapporto. Niente. Sì, si può dire anche c'è dell'assemblea periodica, vi rivedete, c'è una sorta diciamo di scambio di idee, di vedute, quindi di proposte per passaggi successivi in una forma informale? Oppure... Sì, infatti noi siamo partiti da questo terreno che ci è stato dato dall'amministrazione comunale, che noi abbiamo preso ben volentieri, questo sicuramente, però il nostro obiettivo non è quello di chiuderci in questo tipo di rapporto e di aprirlo, quindi tentativi di progetto di uscire anche da quel punto lì o con altre situazioni anche ampliare le nostre attività, quindi magari anche con l'orto certamente, o con altri orti e con altri progetti, magari per vedere di riattivare da una parte le produzioni, per quello che possiamo noi, ma dall'altra parte anche far tornare persone che magari non hanno i mezzi o le possibilità, tornare a produrre, ecco, a lavorare, a garantirsi anche un lavoro, questo in prospettiva chiaramente, non stiamo parlando di adesso. E questo c'è nei nostri... previsioni, nelle nostre volontà, ecco, vediamo se poi riusciamo anche a portarla avanti. Ci sono contatti, perché questo va anche detto, non siamo solamente fermati all'orto, abbiamo fatto anche altro, quindi noi abbiamo contatti un po' con tutte le realtà del nostro territorio, e non solo, possiamo dire, abbiamo aperto un canale, se va per dire, ma insomma un rapporto abbastanza importante. Ce lo facciamo dire dopo aver sentito e ascoltato un pezzo musicale. Sono i Clash. Appunto, ci stava dicendo Roberto, al di là dell'orto sostanzialmente, e quindi ci sono anche delle iniziative, dei canali di solidarietà con altre situazioni. Ecco, ci può dire qualcosa a proposito, Roberto, da questo punto di vista? Sì, diciamo in particolare c'è stato un aiuto che noi abbiamo cercato di portare agli agricoltori e contadini di un territorio come quello di Montereale, in piena zona del terremoto che è iniziato il 24 di agosto dell'anno scorso. Montereale, per capirsi, è stato l'epicentro della scossa del 18 gennaio scorso, quello che tutti conoscono come la slavina che ha portato via l'albergo a Rigopiano, ok, con tutto quello che conosciamo. Niente, noi siamo arrivati lì tramite una richiesta da parte di un'altra associazione che aveva bisogno di un mezzo per portare giù aiuti, e siamo andati anche noi a portare questi aiuti. Noi come Orto Collettivo avevamo intenzione di capire quello che era la situazione e i bisogni anche di chi lì ci lavora, e da lì è nato un rapporto che in cui è venuto fuori un po' la realtà di quel territorio, che è un territorio di storica emigrazione, però con il terremoto dall'Aquila in avanti c'è stato veramente delle batoste enormi, per cui tante persone tendono ad andare via da questo territorio, e magari qualcuno ritorna, però parecchi se ne vanno, e anche il turismo che c'era in questo territorio è andato quasi perso per il periodo del terremoto. Quindi loro avevano un problema di vendere le patate di Montereale, tra l'altro è un posto a 1000 metri d'altezza che sono proprio adattissimo per questo tipo di prodotto, e non solo, come gli altri che conosciamo, dalle lenticchie ai fagioli e così via, ma in particolare le patate loro non riuscivano a venderle perché non c'era più turismo, la loro abitudine di vendere lungo le strade ai turisti non gli permetteva assolutamente di fare in questo modo. È iniziato questo lavoro, è iniziato a fine febbraio di quest'anno, e abbiamo venduto in 2-3-4 settimane 100 quintali di patate. Questo non è stato solamente un fatto di vendita, perché noi avevamo messo un po' in comunicazione, un po' per questo tipo di azione, conosciuto anche già da prima con altre nostre iniziative, certe realtà che ci sono già sul nostro territorio, che già producono cose importanti, da Mondeggi, che noi conosciamo benissimo da sempre, io personalmente l'ho seguito sin dagli inizi, in particolare agli inizi, poi dopo con Orto Collettivo un po' mi resta più difficile dare una mano ulteriore, però ci sono e ci sono stato. Poi dai grani antichi di Montespertoli, altre produzioni di grani antichi ci sono già anche a Calenzano, è un'associazione che va dalla Piana al Valdarno, quindi e tante altre, il biodistretto di Montalbano e così via. I gas in particolare sono stati un punto centrale importantissimo per il lavoro che abbiamo fatto. E su questo vorremmo veramente un momento di incontro da costruire insieme a queste realtà, proprio per tornando un po' al punto precedente che non ho completamente, non ho terminato, è che noi dobbiamo guardare alla storia del nostro territorio e all'attuale situazione di degrado delle produzioni e degrado del nostro ambiente, però appunto in una visione anche di rilancio di quelle produzioni che qui è possibile fare e che sono sicuramente positive da tanti punti di vista, compreso il ripristino della sicurezza anche da un punto di vista dei territori che sono abbandonati, e qui si aprirebbe un discorso molto lungo, e quindi le produzioni, ricominciare a riprodurre in un certo modo, in particolare quello contadino, ci permetterebbe tante cose, di rimettere queste produzioni di cui abbiamo bisogno, quelle che dicevo prima, e sono tante veramente, dalla frutta ai grani, alle verdure, e anche da un punto di vista ambientale, perché purtroppo, ripeto, è un discorso grande, ma i problemi sono enormi. Il nostro territorio ce n'ha veramente tantissimi. Uno per l'abbandono, l'altro per un uso speculativo, e qui va detto, perché questo è sicuramente dovuto ai cacciatori, ma non solo, perché ci sono tanti interessi dietro. Sono stati immessi nel nostro territorio tanti animali, da i caprioli, addirittura cervi, daini, cinghiali in particolare, che non avendo di fronte nulla che contenga questo spazio che viene praticamente abbandonato, sta diventando un problema gravissimo da tanti punti di vista, anche proprio insieme proprio all'abbandono, perché allora a questo punto mi avrebbe parlato dei muretti, mi avrebbe parlato delle fossette, mi avrebbe parlato di tutto un sistema che era fino a 50 anni fa perfettamente funzionante, dove dobbiamo parlare che i terreni non sono assolutamente lavorati, e quindi l'acqua quando arriva o non c'è, o quando arriva e se ne va in maniera anomala con tutti i problemi che comporta. Questo riguarda tutti i territori, ma riguarda il nostro. E con Montereale questo vorremmo fare, un momento di incontro con le varie realtà e con i contadini che sono già venuti il 4 di novembre, sono venuti qua perché siamo andati avanti con questa storia, loro ci hanno chiesto ancora una volta di aiutarli a vendere le patate, ne abbiamo vendute 80 quintali proprio nei primi giorni di questo mese. Ecco, con queste realtà fare un confronto per dare mezzi e possibilità, perché loro ne hanno bisogno, ma anche noi, però noi qua abbiamo anche delle esperienze che stanno andando avanti, quelle che rammentavo prima, e che possono essere d'aiuto a loro, ma anche a noi, perché un punto importante, oltre alla sicurezza, un ambiente sano, è quello di un lavoro rispettoso che dovremo riconquistare. Ecco, prima parlavi di attenzione da parte dei partecipanti a questo orto collettivo, e quindi, ecco, come vi ponete rispetto alle battaglie ambientali che si stanno svolgendo nella piana, ecco, in particolar modo contro l'inceneritore, contro l'aeroporto e più in generale, diciamo, appunto, contro il consumo di suolo? Ma ora è chiaro che anche orto collettivo ha sicuramente diverse anime, ma la sua principale e chiara è quella del no all'inceneritore, del no all'aeroporto, proprio per anche a tutte le altre grandi opere inutili e dannose, come diciamo, perché proprio prevede un modello completamente diverso da questo che questi signori ci propongono, e cioè veramente l'abuso del territorio. Invece noi andiamo nella direzione opposta, che è quella di un rapporto di rispetto anche del territorio, anzi riconquistare questa attenzione e questa cura, perché è il nostro posto, è dove noi viviamo, dove dobbiamo trarre anche i nostri bisogni per il presente e per il futuro. E in futuro c'è qualche scadenza, passaggio particolare, e non solo da un punto di vista come dire, della partecipazione delle iniziative, ma anche rispetto all'Orton Senso, ma ci saranno nuove semine, ecco un po' in generale cosa succederà su quest'orto collettivo nei prossimi mesi. Ecco, sai, qui non siamo una, come si può dire, un'esperienza grandissima, diciamo che noi ci sono 20-30 persone che più o meno passano all'orto, dei momenti molto partecipato, momenti meno partecipato. Quelle cose che dicevo prima sono progetti che noi vorremmo portare avanti come orto collettivo, ma anche come altre, insieme a altre associazioni, a altri abitanti, perché il punto centrale, almeno per quanto mi riguarda, è l'abitare, e quindi il nostro essere abitanti, che ci richiama una responsabilità sì verso di noi, ma ce la chiede nei confronti di tutto quello che ci circonda, e tutta la vita che contiene quello che ci circonda, cioè il nostro territorio. Quindi questa è la dimensione, e qui si spera proprio di allargare, e quello che dicevo prima va proprio in questa direzione, per trovare non orto collettivo è un punto centrale di chissà che cosa, ma insieme agli altri essere veramente riprendere responsabilità e questo tipo di rapporto veramente di rispetto del nostro territorio, che ci manca assolutamente. Ecco, ti riferivi ai partecipanti, diciamo, a questo orto collettivo, ma abitanti. Quindi sono tutti, cioè sono persone che abitano lì, nelle vicinanze, ecco, quindi una situazione radicata nel territorio, ecco. Sono Calenzano, Prato, insomma. Sì, certamente siamo abitanti della piana, diciamo, no? La piana si intende quella grande, non solo quella fiorentina, come siamo abituati a dire. E sì, certamente qui è risente del luogo, questo è sicuro, ma è un'esperienza aperta, quindi tende a avere, come stiamo provando a fare, ad avere, allargare le nostre relazioni in tutto il territorio che ci circonda, e non solo. Ecco, ecco un'esperienza aperta, un'esperienza dal basso, un'esperienza che vuole coinvolgere gli abitanti del territorio. Ecco, e come si fa a sapere quello che succede? Ci sono dei riferimenti in rete? Si può venire lì? Ecco, dici un po' se qualcuno vuole partecipare a questi orti collettivi, dove si può informare e come può fare? Sì, abbiamo una mail che è ortocollettivo@inventati.org. Abbiamo una pagina Facebook in particolare, che è Orto Collettivo, appunto, la trovate. Sono addirittura due le pagine, non da tanto tempo, non è tanto tempo che usiamo Facebook, però insomma va bene, e abbiamo intenzione anche di provare a lavorare su questa dimensione. Le cose, vorrei dire una cosa che abbiamo fatto e che ha avuto anche, e per dire anche un pochino quello che sono i nostri punti di vista, o comunque i nostri sguardi. L'anno scorso, prima appunto dell'impegno a Montereale, abbiamo fatto una tortellata con l'idea proprio di recuperare completamente, insomma, tentare di recuperare sotto tutti i suoi aspetti quella che era una tradizione, il tortello, che anche attualmente in qualche posto lo è ancora, lo è tanto, ma è più a livello di consumismo che a livello dell'alimento che era una volta, no? Perché è un alimento di per sé povero, ma importante anche, che è non banale, importante per l'alimentazione, lo è stato e lo è per il nostro, lo è stato per i nostri territori. Quindi niente, recuperarlo anche da un punto di vista della manualità, da un punto di vista dei prodotti, dei materiali utilizzati, e quindi abbiamo fatto questo utilizzando farine, appunto per questo si parlava dei grani antichi, abbiamo cercato di utilizzare i grani che vengono fatti di un tempo nei nostri territori, abbiamo attraverso i contadini le uova, abbiamo preso il vino, gli ortaggi, quasi tutto o contadino o biologico comunque dei nostri territori, quindi era un'indicazione, no? Un modo per recuperare non solo un mangiare, ma un mangiare che fa i conti e cerca di andare oltre quello che è il consumo di cibo, ecco, come molto va di moda in questo momento. E lì infatti è questo che ci ha permesso anche tante relazioni di conoscere, perché andare in questa direzione è un aspetto che dà parecchio, dà molto. Certo, ci sarebbe bisogno di anche di, c'è bisogno sicuramente, quello, il progetto nostro diciamo non è un progetto legato a qualcuno, e credo che è un qualcosa su cui dovremmo interrogarci, ecco, un po' tutti, un po' tutti dare un contributo. Ad esempio, c'è chi fa, come le tante esperienze dicevamo prima, chi produce, chi tenta, va in questa direzione. Quindi noi dovremmo dare un po' di risalto a chi produce un cibo genuino, un cibo che non va in un abuso, uno sfruttamento del territorio, ma va nel suo rispetto, ecco. Quindi si può avere e stare in modi diversi, si può coltivare o si può dall'altra parte mangiare, però siamo tutti in un progetto che ci lega, e quindi quando dobbiamo sempre di più pensare che il nostro cibo, invece di andare a comprare ai grandi supermercati, dobbiamo cercarlo da chi lo produce per bene, ecco, da quei pochi contadini che sono rimasti e dalle nuove esperienze che stanno costruendosi o che sono già delle realtà, e altre che possono venire. Noi dovremo come consumatori, se non come agricoltori, aiutare a nascere a queste realtà, aiutarle e esserne anche in parte responsabili. Non siamo più, non dovremmo essere solamente dei consumatori, ma dovremmo essere dentro il progetto del cibo in maniera responsabile, direi. Ecco, abbiamo ascoltato le ragioni e le iniziative, le dinamiche che caratterizzano e animano Orto Collettivo a Calenzano, l'abbiamo ascoltata Passaggio a Nord-Ovest, ricordiamo il Passaggio a Nord-Ovest, oltre ad ascoltarlo in diretta il lunedì alle 14, potete ascoltare in replica il martedì e il giovedì alle 13 e il mercoledì e il venerdì alle 14, sempre su Radio Wombat. A sua volta Radio Wombat ha un proprio sito web da cui potete ascoltare in streaming la trasmissione, wombat.noblogs.org, ma non soltanto ascoltarla in streaming, ma scaricare e riascoltare, oppure riascoltare direttamente i podcast di Passaggio a Nord-Ovest, ma anche di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Vi ricordiamo anche il profilo Twitter di Radio Wombat, che è twitter.com/radiowombatfi, e la mail per qualsiasi cosa, proposte, critiche, complimenti, postawombat@insiberia.net. Vi salutiamo alla prossima trasmissione. Ciao ciao. Ciao ciao a tutti, grazie.